Nossa! Manuelita balla nella polvere e lo sa che tutti guardano. Muove il sangue ai sobri, ai coltelli, agli ubriachi che si scannano. Stringe una pallottola fra i denti, può affondartela nel cuore. Porta al petto un crocifisso d'oro, è un mistero di dolore. Tira la sua macina nell'aia del tempo rotola. Ridono gli spasimanti, piangono i reclusi nella botola. Manuelita stringe il crocefisso che è un mistero doloroso. Dicono che il giorno sbuglio leverà, incatenerà il suo sposo. Sposerà un cacciatore di taglie, di dote o di frodo. Un serpente a sonagli, un coyote, un ladro che ha già colto il nodo. Consumata prima tempo più non crede. Sposerà una rana in gingheri, una bestia, un dito grasso senza fede. Sposerà un contrabbandiere, un delinquente, un riservista, un barcaiolo. Oppure, molto più probabilmente, un ceramista di Sassuolo. A gente que é usina, depois de mastigar, larga.